giornate a guardare gli altri, intanto rimuginando cosa ti dirai, quello che pensi tu, se lo penso anch'io. La tua testa bianca e piena giorno.